Quasi in una trasmissione libera, lei può dire e fare tutto quello che vuole. Ma è una vergogna! Lei parteggia in un modo indecente per il mio avversario! Non dica sciocchezze e porti rispetto! E poi non se la prenda con me! Non è colpa mia se lei è di una noia mortale! 24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori! Siamo per la riforma! Uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera. Per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca. Il problema alla Sartori. E vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. E noi vogliamo, elettori, il bagno alla turca. Eravamo quattro amici al bar che volevano cambiare il mondo, destinati a qualche cosa in più che a una donna ed un impiego in banca. Si parlava con profondità di anarchia e di libertà. La Cirapone è una persona meravigliosa. Improvvisamente è successo qualcosa, non lo so, ma io non glielo chiedo neanche. Stavi fuori tuoi perché e proponevi tuoi farò. Sono abituato a guardare i film, certi film dove ci sono dei complotti, è chiaro che ci sono delle multinazionali contro cui lui si sta battendo. Eravamo tre amici al bar, uno si è impiegato in una banca. Nella storia ho visto un aereo, mi hanno detto che è esploso un aereo con sopra Mattei, ma l'11 settembre è avvenuto perché è avvenuto. In tutta onestà. Trovami un artista che non sia stato fregato da un commercialista, da un qualcuno sui soldi. Tra un bicchier di vino ed un caffè tiravi fuori i tuoi perché e proponevi i tuoi però. Questa era la verità di Red Ronnie al microfono di Giuseppe Cruciani. Eh sì, alla Zanzara. Complotto Gino Paoli. Oh, non si parla che di Gino Paoli. Però questa è bella, sta canzone. I forti però siamo noi. Qui non serve mica essere in tanti. Si parlava con tenacità di speranze e possibilità. Tiravi fuori i tuoi perché e proponevi i tuoi sarà. Gino Paoli parla. Lo ha intervistato Mario Luzzatto Fegiz, grande firma che ha intervistato il mondo della musica negli ultimi 30-40 anni. E dice, gli fa filtro la moglie, ma questo colloquio è avvenuto mentre la moglie al parrucchiere. Malandrino Mario Luzzatto Fegiz, che riesce a intrufolarsi nella casa di Gino Paoli, racconta per il Corriere della Sera un Gino Paoli esterrefatto. Mi hanno buttato merda addosso, ma io non ho fatto reati e ho annullato tutti i concerti. Sì, e sapete perché li ho annullati? Perché se incontro qualcuno che fa una battuta di quelle che sento, io a 80 anni lo mando all'ospedale. Mi sentivo chiacchierare, han deciso di cambiare tutto questo mondo che non va. Io mi conosco, dice Gino Paoli, se qualcuno in queste occasioni pubbliche mi avesse fatto qualche battuta di quelle che circolano in giro, tipo cos'è, i soldi nel cavò, quattro amici in banca, io lo so che lo avrei mandato all'ospedale, a meno che lui non fosse stato un campione di sumo. Vabbè, Gino Paoli, poi ovviamente Paoli, che ha lasciato la SIAE, era presidente della SIAE, ha mandato questa lettera accorata nella quale tiene a dire di non aver commesso reati, ma insomma, vista la situazione. Ah, c'è anche Vasco. Forse non ci incontreremo mai, ognuno ricorrere i suoi guai. Però, vabbè, si parla sempre di Gino Paoli, è così, eh? Sono le 6:33 minuti e questa è 24 mattino, è la notizia forse, dai, più popolare, più attesa da tutti, le prime parole pubbliche di Gino Paoli, accusato di evasione fiscale, di aver avuto i soldi in Svizzera. E di evasione fiscale, di aver avuto dei soldi in Svizzera, ecco, adesso le due cose non sono necessariamente collegate. Saluto Lorenzo Nespoli, qui in redazione, e l'alpino Peter Bescapè. Cara Paola Saluzzi, signora! Da 2015, ah. Evviva le rosse, torna, ma diventa evviva la Paola! Sarà un Paola Saluzzi. Me lo sogno questo. Paola Saluzzi. Me lo sogno. Paola Saluzzi. Paola e Saluzzi. Altri quittizi di cui non ce ne frega assolutamente nulla. Ma i due tizi di cui non ce ne frega assolutamente nulla, che io ho da ridire. Ma vabbè, ma puoi da ridire. Buongiorno a tutti. Puoi ridire, dire quello che vuoi. Il Gino Paoli ha un proiettile del cuore, sì. Sta lì a 80 anni e combatte. Chiarirà la cosa, si capirà. Sicuramente il fatto di aver, come dire, dato le dimissioni e anche interrotto i concerti è un suo però è interessante, guarda, il tema, perché oggi anche Libero intervista un impresario tale Lello Di Guori, 80 anni, che spara zero, dice vi racconto i cachet degli artisti, insomma voi conoscete questo ambiente, voi nel senso tu Paola Saluzzi e Luca Dini. Scusa, numero due. Cos'è che sei? Tizio numero due, sì, certo. No, siamo un po' offesi, Paola Saluzzi, è inutile tu lo sai che noi vogliamo bene a questo che ci manda le siglette, te la mando sempre, però ecco, voglio dire, caro... Sì. Gli chiediamo una correzione. Caro doppiatore anonimo, no, devi, a noi piace così, essere bastonati anche di più. Fai una sigla ancora più dura e noi la manderemo in onda. Subia. Allora, qui abbiamo un direttore che abbiamo lasciato mercoledì scorso. Tu ti ricordi, cara Paola, che la copertina di Vanity Fair aveva in copertina, in prima pagina, come dire, una tale attrice, tale Julian, che forse qualcosa ha fatto nella domenica, esatto. E sai il direttore che alle 5 del mattino casualmente era sveglio domenica scorsa, chissà perché, era molto sveglio, esatto, quando c'è stato The Winner is Julian Moore, sai cosa ha fatto? Ha twittato una roba con la copertina di Vanity Fair che suonava tipo scusate, ma Luca, ma come hai fatto a saperlo? Avevi degli insider? No, vabbè, dai, non era difficile. Ah, no, ecco, difficile. Adesso non sminuirti, però è un bel rischio. È stato un bel rischio, sì, però. Sì. Fare la copertina a Julianne Moore, che poi ha vinto l'Oscar come miglior attrice. Vabbè. Io ho twittato and the winner is Luca Dini. Oh, mi sembra giusto. Allora, apriamo il Parlamento, perché questa cosa di Gino Paoli, l'evasione fiscale presunta, adesso non di Gino Paoli. Vado a prendere un caffè, perché? Quindi se mai ci vediamo più tardi. Grazie. Parlamento. Forza. Caro Luca Dini, che ne pensi? Allora, Gino Paoli è combattivo. Gino Paoli, però c'è questa intervista a Lello Di Guori. Tu ne hai mai sentito parlare di tale Lello Di Guori che dice io odio. Non ho sentito parlare, non ho letto l'intervista. Uno che dice odio soprattutto Beppe Grillo, con me ha evaso almeno 300 milioni di vecchie lire. Si beccherà chiaramente una querela. Questa è una storia che era già. Io l'ho già sentito. No, certo, le feste dell'unità, cioè, però Grillo ha querelato tutti quelli che. Perché, sì, sai, uno deve portare anche le prove. Però il concetto è: nel mondo dello spettacolo è così, proprio c'è un nero che circola enorme. Caro Luca, è giusto dire sempre presunto, però devo dire, l'abbiamo tutti sentito dire molte volte. Mi fanno solo un po' sorridere i giustizialisti ad personam, no? Quelli che. Adesso che c'è finito dentro Gino Paoli si accorgono che è una brava persona, per carità, è sicuramente così e io spero veramente che si risolva tutto in niente, però capita tutte le settimane che qualcuno venga messo alla gogna perché indagato per presunta evasione, però per tutti è un evasore punto e basta. Invece perché è l'amico, cioè no, noti sì. Da alcuni il atteggiamenti. Il lo trovo ridicolo. Cioè, un divaghi, no. Ma per esempio da chi? Penso... No, dicevo, per esempio Red Droni mi fa ridere. Scusa. Red Droni ti fa ridere? Ma Red Droni parla addirittura di complotto, cioè il complotto, perché ha toccato le multinazionali con la SIAE. Sì, vabbè. D'altronde l'11 settembre insegna, si ha un po' perso la brocca, effettivamente. Per carità, effettivamente. No, è anche il... c'è il discorso comunque che qui ci sono, se è vero, ci sono delle intercettazioni ambientali, quindi io aspetterei... Sì. Apprezzo molto il gesto delle dimissioni e tutto il resto, perché, certo, perché non ha voluto trascinare nel fango o lasciar trascinare nel fango anche la SIAE. Dice Gino Paolo in questa intervista al Corriere: tutta la mia vita vissuta con grande onestà e coerenza, travolta da un'intercettazione casuale che non prova nulla, mi sento umiliato, provo amarezza e rabbia. Così al Corriere. Paola Saluzzi, però la questione ovviamente, al di là di Gino Paoli, qua c'è la questione sia del mondo dello spettacolo, questo impresario parla, Beppe Grillo, Jennifer Lopez, insomma tutti praticamente si muovono con il nero, per carità, la prendiamo con le pinze questa dichiarazione. Tutto è da vagliare, tutto. Allora, anche le stesse dichiarazioni, che sicuramente questo signore si espone nome e cognome e quindi dice cose che sicuramente gli procureranno appunto querele piuttosto che altro, piuttosto che apprezzamenti, piuttosto che come dire, premiare la sua coerenza nel racconto. Ecco, su questo ripeto, chi si espone sempre nome e cognome ha un suo motivo per farlo, ha una sua ragione. E dopodiché capiamo dove porti, ecco, capiamo dove voglia arrivare a un ragionamento del genere, cioè dire è tutto, sai, parlo a un signore esperto di calcio, no? È come prendere. prendere e colpire a tutti i costi, ecco, alla tibia il mondo del calcio e dare calci frontali, ecco, calci al calcio. È tutto da capire, non voglio fare la vaga. Però tu su Gino Paolo hai notato, voglio dire, cioè, effettivamente, per esempio, Beppe Grillo è stato anche criticato all'interno del Movimento 5 Stelle, ha anteposto, diciamo, a qualsiasi giudizio, dire beh, ma è un mio amico, sono un po' in difficoltà. Però perdonatemi, questo sì, sicuramente, e lì Beppe Grillo si è preso in testa le padellate di chi ha detto che significa mio amico, però se attaccano un mio amico... Tu lo difendi. Io tendo a come amicizia terra, no, ma per carità, come amicizia, no, sì, cioè tendi a dire ma insomma vediamo, spiegherà, vediamo, eccetera, questo voglio dire, questo poi il migliore dei miei amici può aver commesso come dire anche un omicidio, ma per questo motivo io devo prima capire perché, prima capire che cosa sia accaduto e dopodiché capisco che cosa dire sull'onda emotiva. Sicuramente Grillo, non sono mai stata qui a difendere Beppe Grillo, ma intendo dire avrà avuto una reazione di questo tipo. Sì, poi sì, ovviamente sì, tu la fotografi, la racconti e scatta la delusione. Cosa doveva fare? Imbracciare un mitra e andare sotto casa di Gino Paoli? No, ma per carità, carità. Comunque, dopodiché tutto è da chiarire, questo è chiaro. Tutto è da chiarire, ma questo sì. Sarebbe solo ricordarsi che anche gli altri, quando invece vengono... Certo, direttore. Ah no, ma è chiaro, sì, cioè, per l'amico ci si straccia le vesti, per cui appena uno non è amico, che dobbiamo fare. E questa è un po' la regola di quello che succede in Italia. Vabbè, e comunque... È un gradino, lo si sorpassa con molta facilità, è un gradino, ci vuole niente. Esatto, tipo Luca Dini, Julian Moore, quanti soldi aveva preso in nero per vincere l'Oscar? Il rosso, certo, li ha presi. È un'altra rossa. Sarà mica che la sigla è perché è dedicata a Julian Moore, in realtà. Cara Paola, perché va bene. Insomma, va bene. Vabbè, no, come però dire? Dice viva, è Paola Saluzzi. Magari ne ha fatto un'altra doppiata in inglese e lui dice Julian Moore. Vabbè, ci scrive un ascoltatore, vedete, poi però avvengono questi effettivamente circuiti mediatici, per cui ci scrive: buongiorno, io faccio parte di una piccola comitato che fa una festa paesana e paghiamo la SIAE e loro portano gli euro in Svizzera, bravi, bravi. Ecco, vedi Luca Dini, poi scoppiano ovviamente questo tipo di reazioni. Certo. In questo secondo me Gino Paoli ha fatto bene a dire, come dici tu, beh, almeno mi dimetto per non creare proprio questo tipo di... No, devo dire bisogna riconoscere gesto raro, ecco, questo sì. Gesto raro, gesto. No, le dimissioni su due piedi non, ti creano un certo stupore, come vedere un Van Gogh improvvisamente. Vabbè. A casa di qualcuno. Esatto. A casa dai un Van Gogh. Wow, wow. Vabbè. Di cosa vogliamo parlare per il resto, al di là di questa cosa? Hai voglia. Di cosa parli tu alle tre oggi? Di politica. Allora, sono sincera. Sì. Oggi mi do al diventare tecnico per oggi non sono in onda, ho due giorni su cui devo lavorare sempre per Sky, non un altro progetto. In onda. Un altro progetto, no. Digitale terrestre, canale 27, sintonizzate questi televisori, lo stanno facendo in tantissimo. Ma infatti, sai che io devo risintonizzarlo, perché effettivamente in alcuni televisori, bisogna insistere, è facilissimo, andare sul sito www.sky.it. Vabbè, ma io sono un po' gnucco, mi viene a trovare a casa, beviamo un caffè. Assolutamente, sono pronto a venire a casa. In alcuni dei miei televisori suonava un po' tipo Reggia del Sultano del Brunei. No, ma sono pronta a raggiungere ciascuna persona che dirà: allora Paola Saluzzi si offre spontaneamente per offrirsi da tecnico e venire nelle vostre case. Segnalatemi al 349-238-6666 se avete problemi a sintonizzare sul canale 27 il digitale di Sky. È facilissimo, prima di tutto si va sul adesso dai, facilissimo, non dire così, secondo me è complicatissimo, avete bisogno di un intervento urgente di un tecnico in casa, ovviamente preparate un caffè, il caffè per la rossa almeno, è il minimo che ci vuole. Allora, avete visto e vi appassiona questa disfida all'interno della Lega nel Veneto? Caro Lucadini, fai finta. Non so se mi appassiona. Non sai se ti appassiona? Quindi no, ieri, non ho deciso ancora. Ieri avevamo Aurora Lussana, ex direttore della Padania, che ci ha detto per chi propone di far vincere Lady Like Moretti, insomma per Tosi, propongo una ceretta a caldo. E Paola Saluzzi mi conferma che la ceretta a caldo fa male, credo. Mamma mia! ecco, questa era la soluzione per... Devo dire, la Lussana però va giù di... Grazie, va giù pesante, va giù pesante. Qualsiasi donna l'ha capita. Va bene. Questo non ci sono dubbi. Esatto. Allora, dopo è una sfida. Non di Barletta, ma di Verona giù di lì e Tosi non molla, Di Burletta, una sfida di Burletta. Di Burletta, esatto. Ne vedremo delle belle. È un periodo che litigano tutti. Sì, Berlusconi confitto. Berlusconi confitto. Renzi. Civati con Renzi. Vabbè, Civati se non litiga quando si sveglia con se stesso, non professione litigante, esatto. Però litigano tutti, litigano, qualsiasi danno di santa ragione. Litigano, vabbè, vedremo il litigio migliore. Dopo il traffico, mi dite qual è il litigio che vi appassiona di più. 24 mattino. Non è una bella idea fare una manifestazione a Roma, la Lega, caro Mina. Non è proprio una bella idea. Aspetti di tutto. Io non c'entro però, Ciao. Mi dice Cassella, ignorante! Non è questione di essere arrabbiati, semplicemente che state diventando una trasmissione spazzatura. Hai visto il brazzo? Che figura di merda che ha fatto con i suoi elettori? È inutile, quando uno sembra che vuole spaccare il mondo, appena entra in quel mondo si infetta. Dottor Milan, che per caso Veronica Lario ha pensato che Berlusconi fallisca con tutti questi pagamenti che fa e gli ha ipotecato la villa sul Garda. E Allegri dobbiamo stare, 40.000 euro li diamo al re, al cavaliere, al cardinale, e sempre Allegri dobbiamo stare. Cari signori, da oggi in poi tenere il proprio pensiero al proprio posto, cari signori. Abbiamo una nuova sposa che ha preso marito e quindi, cari amici, il nostro incubo è finito. Vabbè, cara Paola Saluzzi. È bellissima. Ormai anche le rime baciate della disperazione. Della disperazione. Questo accade nel meraviglioso tuo 24 mattino. Vedi, attenzione, fermi tutti. A me piace tantissimo Paola, ma adoro il mega direttore Luca. La sua voce è una melodia. Bravo, allora, bravo. Caro direttore, però se devi dire a tuo cugino di svegliarsi, esatto, sto grazie. Scherzando, sto scherzando, però. No, leggo il messaggio. Vedi, direttore, che tra poco inizieranno le groupies. Stai attento. Le pagate bene, dai. No. Vabbè, allora, Luca Dini, tu che hai uno sguardo sulla politica sempre fintamente distratto, sì. In realtà molto, molto pronto a dare i tuoi giudizi, i tuoi colpi di macete, come li chiamo io. Qual è la disfida che ti appassiona di più? Renzi con la minoranza del PD o con Landini, Salvini, Tosi, Zaia o Berlusconi, Fitto e i fittiani? Nessuna delle tre, posso dire, no, ecco. Nel senso che mi sembra sono tutte di sfide perse in partenza, cioè vincono rispettivamente Salvini, Renzi, Berlusconi. Eccolo lì. Quindi i tre vincitori li abbiamo, Paola Saluzzi, sono questi. Concordo. Sì. Beh, su Renzi direi che lo dimostra giorno per giorno, anche Salvini, cioè Tosi cosa vuol fare da solo? Il problema è che potrebbe far perdere il Veneto alla Lega. Il concetto è arrivare poi alle regionali, perché quelle saranno il grande. E poi vedrete che sulle regionali si rivorranno magari ancora bene, perché è naturale, perché la politica, per carità, ed è questa da quando si portava la toga, e quindi... senso di quanti chilomani, e quindi sicuramente è questo. Cioè, senz'altro ci sono i tre vincitori la controffensiva dall'altra parte. Sono a me, sapete cosa ha appassionato, essendo però in questo caso sono locale, ha appassionato il tema della barcaccia a Roma. Lo so che ne avete già parlato. No, ma io voglio sapere, che so che si scatena su questo. Tu cosa faresti a quei tifosi olandesi, cara Paola Saluzzi? Quello che ha detto la Lussana è niente. Quindi massimo, cioè, cosa c'è peggio della ceretta a caldo? Cosa c'è peggio? Non lo so, uno alla volta con la pincetta? Ecco, per esempio. Cioè, il loro presunto seducente capo, ognuno ha il capo che si merita, sì. Che dice: ah sì, ci accusate di aver fatto pipì sui monumenti, ma Roma è tutto un monumento. Questo è vero, era un complimento. Era un complimento per Roma. Ti faccio vedere io i complimenti. Vengo a casa tua a sistemarti, altro che il canale. Altro che Gino Paoli a 80 anni. La Paola Saluzzi contro i tifosi. Che voglia di menarli, guarda. Eccolo lì, che voglia di menarli. Cosa hanno fatto di quella piazza e di quella fontana? Cosa hanno fatto? Indipendentemente dal concetto del danno in sé. No, indipendentemente, aggiungo io, Paola, indipendentemente dal fatto che noi evidentemente non siamo in grado di gestire queste situazioni, perché all'estero non succede. Sì, vabbè. Sì, sicuramente. Proviamo a farlo fare noi. Appunto. A fare qualcosa ai loro orologi a cucù, o quello che hanno da quelle parti, i puntani. Vabbè, ti ha fatto la diga. Ti ha fatto arrabbiare questa. Ti ha fatto arrabbiare. Sì, parecchio. Vabbè, invece noi, io ti faccio sentire Salvini. Dai, Salvini su Zaia la vede così, su Zaia Tosi, in maniera perentoria. Zaia non si tocca, quindi chiunque discuta uno dei governatori più amati di sempre lo fa fuori dalla Lega, senza problemi, non c'è il problema Tosi contro Tizio, contro Caio. Eccolo lì, fuori dalla Lega. Attenzione, vedremo, staremo a vedere. Allora, io qua il numero di Vanity Fair, caro Luca Dini, vabbè, c'è il... giustamente non potevi fare una copertina che avevi già fatto, e quindi c'è l'altro vincitore, Redman. Io ho visto il film, è straordinario, però l'interpretazione di Stephen Hawking da parte di questo giovane attore è davvero qualcosa di incredibile. Sai che però a me piace andare a sfrucugliare le cose diverse. Voi raccontate in un bel reportage fotografico e non solo che cosa siano e chi siano i Sahrawi, che è un popolo molto molto poco conosciuto. Chi sono? Sono gli abitanti dei Tuareg, sostanzialmente dell'ex Sahara spagnolo, occupato in parte dal Marocco illegalmente secondo varie sentenze internazionali. E sono sostanzialmente un popolo che non c'è, un popolo senza paese, è un popolo che soprattutto in questo periodo è messo molto a rischio dall'infiltrazione di alcali. Esatto, con i rischi che corrono, perché sappiamo che sono zone comunque geografiche dove laddove non c'è un controllo di un'autorità, no? C'è il rischio che poi il controllo, poi dopo noi in genere occidentali ci svegliamo 15 anni dopo, no? Dopo 15 anni ci diciamo, oh cavolo, c'è Al-Qaeda anche lì, e va bene, quindi questo è il pezzo che voglio segnalare, l'articolo che voglio segnalare. Noi vergognosamente ci svegliamo solo quando li abbiamo al citofono, appunto, e pensiamo che il resto dei problemi, le macchine che saltano per aria a Baghdad oppure altrove, il Pakistan, ricordiamo c'è stata una strage di bambini in una scuola, cioè, il chilometro, Alessandro, questo lo sa benissimo il direttore, e non a caso il direttore accorcia i chilometri ogni volta, sì, parlando e proponendo, il chilometro allontana tanto, sai, è successo, che peccato, che gran peccato, se oggi va in giro la gente a dire Bhopal, lo prende per il nome di un detersivo, nessuno si ricorda più che cosa sia stato, successo a Varese o a Potenza se lo ricorderebbero. Purtroppo è una delle regole dure della, come dire, come si chiama, notiziabilità, cioè è successo a 5.000 chilometri allora chi se ne frega, no? Ah, certo, spesso si dice nei giornali, chi se ne frega, è successo a 5.000 chilometri, 5 milioni di morti, ma la Farnesina segnala nessun italiano, sì. Esatto, è quello. Vabbè, dai, vi voglio lasciare con un tocco di, come dire, di, vabbè, intanto è più per Paola Saluzzi, sai che Daniela Santanchè è stata accusata di far ricorso alla chirurgia estetica, alla plastica. Senti come ha risposto Daniela Santanchè, la plastica. Ma la Santanchè va nell'umido o nella plastica? 50-50. La plastica è un materiale meraviglioso, non si deteriora, non inquina, viva la plastica. Viva la plastica! Beh. Questo ha sempre una gran classe nel trattare queste cose. Posso però dire una cosa, questo è Momoplan 2.0. Per chi vedeva il carosello, grandiosa. Viva la plastica! Capito Luca Dini? Viva la plastica! In questo caso è la parte migliore. Va bene colpo di macete di Luca Dini in chiusura. Zampata 2-0 al 94esimo, quando la partita ormai sembrava sullo 0-0. Vi devo salutare, Paola Saluzzi, grazie. Forza Milan, e Luca Dini, trovate Milan, ovviamente così il numero di Vanity Fair. Canale 27 su Sky, se avete problemi mandateci un messaggio, arriva il tecnico. Arrivo io, digitale terrestre, sono il tecnico. Come dicono in Brianza, il tecnico. Paola Saluzzi, il tecnico. Ciao. Volete dire la vostra? 02-4652-4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02-4652-4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Siamo qui, sono le 7:19, ben ritrovati cari ascoltatori, siamo pronti a leggere i giornali con voi. E di cosa ci occuperemo? Oggi ci occuperemo di vitalizi, perché vi ricordate che il presidente dell'Assemblea regionale siciliana aveva detto: guardate che anche alla Camera e al Senato, se vogliono, da oggi possono sospendere i vitalizi a tutti i condannati. Se vogliono, basta farlo, è una decisione politica. Avremo ospite il questore D'Ambruoso, avremo ospite il coordinatore scientifico di una petizione di Libera che ha già raccolto 300.000 firme, che chiede appunto la sospensione dei vitalizi ai condannati. E poi avremo ospite, per parlare un po' di lotta alla mafia, Nicola Gratteri, procuratore antimafia Reggio Calabria, presiede anche una commissione, perché sono usciti dei dati della direzione distrettuale antimafia riguardo alla pervasività della criminalità organizzata in Italia. Ne parleremo con lui alle 8:40, ora andiamo però a leggere i giornali. E allora, eccoci qua. È mercoledì 25 febbraio, i titoli, oggi le aperture dei giornali sono diversificate. Il Sole 24 Ore sceglie sì dell'Europa al piano di Atene. È l'apertura anche della Stampa, l'Europa approva il piano della Grecia. E il Manifesto, che vede dal punto di vista greco il titolo Restano umani. Nelle riforme presentate alle istituzioni, il governo Tsipras mantiene lo spirito del programma di Salonicco. Poi il Corriere della Sera, e vedremo tra poco, è un'esclusiva, è uno scoop che ha il Corriere, l'apertura di prima pagina, Google 320 milioni all'Italia, accordo raggiunto con Guardia di Finanza e magistrati, Google pagherà le tasse per gli anni 2008-2013. Repubblica, giudici, chi sbaglia paga, scatta la nuova legge, l'Associazione Nazionale Magistrati, cioè il sindacato, dice è contro di noi. Pagheranno anche i giudici, è il titolo del Messaggero, mentre il giornale, il PD riesuma i soviet, nostalgia comunista, Bersani vuole che la politica dica sì o no alla vendita di RCS Libri a Mondadori. Libero invece, il PD ammanetta la polizia, il Parlamento sta approvando il reato di tortura nel quale si cela la norma diabolica contro le forze dell'ordine. Il Fatto Quotidiano invece insiste, indovina chi c'era a cena, Renzi nasconde chi lo finanzia, la famosa cena del PD. Vedremo altre aperture, ma voglio subito tuffarmi nella lettura dei giornali. Oggi c'è certamente l'intervista del giorno, è quella che Mario Luzzatto Fegiz per il Corriere della Sera fa a Gino Paoli. Parla per la prima volta, nonostante Fegiz scriva sul Corriere che la moglie di Gino Paoli stia facendo filtro a tutti i giornalisti, ma questa intervista avviene quando la moglie va dal parrucchiere. E allora Mario Luzzatto Fegiz riesce a intrufolarsi evidentemente nella casa di Gino Paoli, che sul Corriere, pagina 25, dice così, all'indomani delle dimissioni dalla SIAE, dopo i soldi in Svizzera, sono ferito e umiliato e se qualcuno ci scherza lo mando all'ospedale. Così Gino Paoli, mi hanno tirato addosso tutta la merda possibile, eppure i miei avvocati mi assicurano che non ho commesso nessun reato. Ho riflettuto a lungo e mi son chiesto, faccio più danno alla SIAE e ai suoi soci e iscritti restando alla guida, con la certezza di finire tutto quello che ho cominciato oppure dimettendomi? Alla fine ho deciso e mi sono dimesso. Certo, negli ultimi giorni ho sospeso anche tutti i concerti e l'ho fatto perché mi conosco. Se qualcuno mi avesse fatto qualche battuta di quelle che circolano ora, qualche sfottò, bene, io lo avrei mandato all'ospedale. Nonostante i miei 80 anni e ovviamente a condizione che il battutista non fosse un campione di sumo. Beh, è piuttosto minaccioso, ma io sono così, quando mi sento ferito, umiliato ingiustamente, io non porgo l'altra guancia, sono capace di scatti d'ira incredibili. Una parola storta e va a finire male, quindi ora me ne sto a casa e cerco di parlare il meno possibile. Mia moglie blocca ogni contatto con i giornalisti. Ma appunto qui svela Mario Luzzatto Fegiz, questa intervista avviene con la moglie dal parrucchiere e quindi bene così. E poi sulle accuse dice Gino Paoli, mi sento umiliato, provo amarezza e rabbia, non so dire quanta, tutta la mia vita vissuta sempre con grande onestà e coerenza, travolta da un'intercettazione casuale che non prova nulla. E quando tutto sarà chiarito, il mostro evasore da sbattere in prima pagina verrà riabilitato con una notizia breve nelle pagine interne. Ecco qui, Gino Paoli parla per la prima volta con il Corriere della Sera. Per la verità il tema rimane molto sulle prime pagine dei giornali. Guardate che cos'ha Libero, che parla delle dimissioni di Gino Paoli. Libero intervista un impresario, si tratta di Lello Liguori. L'intervista è di Giacomo Amadori in prima pagina. Da Beppe Grillo a Jennifer Lopez, tutti pagati in nero. Così parla Lello Liguori. Per la verità la premessa, Giacomo Amadori la fa, ed è questa. È un soggetto che ha conosciuto la malavita meneghina, quindi di Milano, e ha conosciuto da vicino uno dei boss dell'epoca, Angelo Epaminonda, che lo ha accusato di tutto, omicidio, associazione a delinquere, spaccio internazionale di droga. Han persino tentato di ucciderlo, dice Liguori. Ho pagato cara l'amicizia con Bettino Craxi. Insomma, un soggetto dal passato un po' turbolento. E comunque fa l'impresario a 80 anni e sentite cosa dice in questa intervista a Libero, evidentemente assumendosi tutte le responsabilità di quello che dice. Grillo che mi ha querelato con me ha evaso almeno 300 milioni di lire, è venuto almeno 20 volte nei miei locali, prendeva 70 milioni, 10 con l'assegno e 60 milioni di lire in nero. Questo lo ha fatto 4 volte al Covo e una volta allo studio 54 di Milano, poi ha lavorato altre volte a 20-30 milioni. Dice, ovviamente non ho prove, ci sono le mie dichiarazioni alla SIAE in cui dicevo quante persone c'erano del locale, quello è un documento. E Gino Paoli l'ho ingaggiato una decina di volte e lui come veniva retribuito? Fa una pausa, Lello Liguori dice, non ricordo, Paoli è un amico e non ricordo. Riguardo a Grillo mi è stato chiesto da più parti di asfaltarlo, naturalmente sotto elezioni, io ho detto si può fare, mi sono messo lì 3 giorni e ho parlato con tutti i giornali, quindi non fa neanche mistero di volerlo asfaltare. E poi racconta anche, ma guarda che funziona così nel mondo dello spettacolo, ma dovunque, per esempio... L'Expo, ora sto trattando per l'Expo, hanno preso Andrea Bocelli, non da me, da un impresario inglese, volevano un'altra star, abbiamo tentato Angelina Jolie ma Bocelli non ha voluto perché oscurava un po' il suo nome, allora abbiamo pensato di puntare su Jennifer Lopez, ma con gli intermediari è la solita storia, costa 1.800.000 euro, ma bisogna dargliene normali, cioè ufficiali, 1.200.000, il resto no, tanto per dire. Però non lo riporti questo, perché non abbiamo ancora firmato i contratti e faremmo una brutta figura con Jennifer Lopez. E ovviamente è tutto a pagina 10 di Libero. E vabbè, racconta così. L'entourage dell'americana, cioè Jennifer Lopez, chiede 600.000 euro extra per l'Expo. Il peggiore però è il comico Beppe Grillo, secondo e questo Lello Liguori. Con me ha evaso 300 milioni. Vabbè, partiranno immagino le querele dovute in questi casi e staremo a vedere. Oh, questa notizia invece è una notizia, ripeto, che ha solo il Corriere in prima pagina e riguarda una maxi transazione, racconta Luigi Ferrarella sul Corriere a pagina 6, che Google fa con il fisco italiano. Google fa pace con il fisco, paga 320 milioni. È una pace da circa questa cifra su 800 che riconosce come imponibile prodotto in Italia in 5 anni. È un colpo di scena, racconta lo stesso Corriere della Sera, perché al gigante del web non sarebbero mancati né arsenali giuridici per provare una resistenza a oltranza, né l'opportunità di aspettare a maggio l'atteso decreto legislativo fiscale che sottrarrà la rilevanza penale l'abuso del diritto, cioè le operazioni che pur nel rispetto formale delle norme realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Invece, all'esito di una riunione tra penalisti, tributaristi, magistrati e guardie di finanza, è stata raggiunta un'intesa. Tra l'altro la regia di tutto questo è della professoressa Paola Severino, ex ministra della giustizia. E così la multinazionale ha voluto fare questa sorta di diplomazia della distensione, come si chiama, pagando... transando 320 milioni di euro su 800 in 5 anni contestati con il fisco italiano. Questo Google, trovate tutti i dettagli a pagina 6 del Corriere della Sera. Ma siamo al momento dell'articolo che ci fa più incazzare di questa giornata ed è l'apertura di Italia Oggi. Giorgio Ponziano racconta che a Bologna sta per arrivare quella che i commercianti hanno già definito la Delirium Tax. A Bologna c'è la Delirium Tax. Vengono tassati come pubblicità anche i menù esposti in vetrina da bar e ristoranti, oltre ai cartoncini con i prezzi, i cartelli con gli orari di apertura, chiusura e pure gli zerbini. Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Alessandro Milan, il tuca tuca dell'informazione. Non è male il tuca tuca, eh? Dobbiamo rispolverare Raffaella Carrà, era lei la regina del tuca tuca. Allora, era lei, sì, era lei, guardatemi, era una domanda, forza. guardo Peter Bescapelli Alpino, dice sì con la testa, Lorenzo Nespoli, ma loro dicono sì con la testa sempre, così, qualsiasi cosa dica io. Forza Inter! No, no, no, questa almeno no. Va bene, allora, una delle notizie più importanti per quel che riguarda la politica è che ieri è arrivata l'approvazione per la responsabilità civile dei giudici. Cambia la norma, la responsabilità dei giudici è legge, nel senso che finora valeva la legge Vassalli. E tra l'altro, come racconta pagina 5 il Corriere della Sera, la legge Vassalli, vi faccio un quiz. Sapete la legge Vassalli in vigore nel 1988? In 27 anni di applicazione, a quante persone è stato riconosciuto un risarcimento per dolo o colpa grave da parte di un magistrato? Perché queste sono le uniche ipotesi che venivano punite. A quante persone in 27 anni, a quanti cittadini è stato riconosciuto un risarcimento per dolo o colpa grave del magistrato? 7 persone. Comunque, sono state cambiate ora le norme. La soddisfazione di Renzi e su Twitter il sì dopo anni di rinvii e polemiche. Nel voto di ieri si sono astenuti Forza Italia, SEL e Lega. Il no invece è arrivato dai 5 Stelle, che per la verità al Senato avevano votato sì, ma ha raccontato Alfonso Bonafede in aula: abbiamo fatto questa inversione di fronte a questa inversione a U, l'ha spiegata così. Al Senato il voto del Movimento è stato favorevole perché avevamo ottenuto l'esclusione della responsabilità diretta e segnali di apertura sulle modifiche da fare qui alla Camera. Comunque non sono soddisfatti i magistrati, l'Associazione Nazionale Magistrati ha già detto di no, non sono soddisfatti anche coloro come per esempio il leghista Gianluca Pini, che era il primo che voleva una responsabilità civile, dicendo ma non è la responsabilità civile totale, per cui se un magistrato sbaglia paga di sua tasca. Insomma, tutti un po' scontenti, a parte ovviamente la maggioranza e il governo che ha approvato questa nuova norma, e tutti i dettagli anche sul Sole 24 Ore si spiega come cambia ora la norma dalla legge Vassalli alla norma approvata. Ieri anche il Presidente della Repubblica Mattarella è intervenuto sul tema giustizia in qualche modo, perché ha detto Mattarella alle toghe, e cioè ai magistrati, di fare la loro parte, no a protagonisti, no a burocrati. In Italia, ha detto Mattarella, è forte il bisogno di legalità. Tra l'altro, qui bisognerebbe aprire una sezione particolare, la carta costa, su tutti gli articoli riguardanti il capo dello Stato. Non c'è giornale che non abbia fatto le paginate sul fatto che Mattarella sia andato in tram a Firenze. Eccolo qui, sul tram, la foto sul tram, il Corriere elogia la sobrietà di Mattarella, la Stampa elogia la sobrietà di Mattarella, addio alle auto blu, Mattarella prende il tram per non bloccare il traffico, Libero invece dice che è il tram blu che ha bloccato il traffico grazie a un convoglio speciale. Eccolo qui, il sobrio tram blu costava di meno una limousine, quindi come la fai la sbagli? E poi ancora anche il giornale: caro presidente, troppa sobrietà guasta, Maria Teresa Conti, il commento sull'uso del treno, del tram e dell'aereo di linea. Sezione speciale, la carta costa, tutti gli articoli del sul presidente, su come si muove il presidente. Direi vanno proprio così, track, di filata, senza neanche passare dal via, come si direbbe a Monopoli. Allora, per il resto la politica vede schermaglie, è il momento delle schermaglie. Nel centrodestra Berlusconi litiga con Fitto. Nella Lega, tra poco lo vedremo, c'è il litigio Zaia-Tosi-Salvini, e soprattutto sul Veneto. Nel centro-sinistra si litiga un po' con la CGIL, se la vogliamo diciamo inglobare in quell'area politica, e si litiga però anche tra minoranza del PD e maggioranza. Guardate il capogruppo alla Camera del PD, Roberto Speranza, uno di stretta osservanza bersaniana. un PD democratico rispetta il Parlamento. Il governo ha sbagliato. Così dice Speranza. Il governo ha sbagliato. Ritengo sia stato un errore non seguire le indicazioni delle commissioni di Camera e Senato sul tema dei licenziamenti collettivi. Il tema è sempre quello del Jobs Act. Il passaggio del Jobs Act sul tema specifico segnala un allarme. Sul punto formale non ho nulla da dire, ma c'è un problema di opportunità politica. Non credo al teorema dell'uomo solo al comando, dice Speranza al Corriere della Sera. Mi sembrano però infondate le preoccupazioni di una deriva antidemocratica. Detto questo, però, Renzi stesso sa bene che nessuno ce la fa da solo. Nessuno ce la fa da solo, dice il capogruppo del PD alla Camera. Come liquida tutte queste cose Matteo Renzi? È il solito retroscena, Maria Teresa Meli, sul Corriere, delle frasi dette, i commenti detti da Renzi ai suoi e frasi che vengono poi messe virgolettati, non ufficiali ma ufficiosi, in questi retroscena. Sono tutte manovre di posizionamento, taglia corto Renzi. Speranza deve mantenere il punto, ma non può esagerare, altrimenti rischia di perdere il ruolo. E poi Renzi parla anche di Landini, altra spina nel fianco, diciamo, della sinistra. Sono tutte finte. Nel frattempo l'articolo 18 non c'è più, la FIOM perde pezzi. La realtà è questa, il resto illazioni, ipotesi e dietrologie. Così Renzi, che dice non mi fermeranno neanche sulla RAI, vogliono provocarci, ci sarà un decreto? Se le opposizioni applicano in ogni passaggio parlamentare lo strumento naturale, sarà il disegno di legge, altrimenti il decreto legge. Insomma, un Renzi che non si piega, non cede di un attimo. Tra l'altro, una delle spine del fianco, come detto, è Landini in questi momenti, in questi giorni. Landini che si butta o non si butta in politica? Lo so che questa è la domanda, mentre vi spalmate una bella fetta biscottata con la marmellata, magari state facendo una bella corsetta rigenerante, state pensando a questo: Landini si butta o no in politica? In realtà Repubblica racconta con Roberto Mania che l'obiettivo di Landini è un altro, a pagina 11, ed è scalare la CGIL. Questo almeno racconta Repubblica. Maurizio Landini, 53 anni, promuoverà sì la coalizione sociale per dare rappresentanza politica al lavoro e aggregare un'area di dissenso sociale di sinistra, ma il suo vero obiettivo è diventare il segretario generale della CGIL nel 2018, succedendo dunque a Susanna Camusso. Questo, secondo Repubblica, è l'obiettivo di Landini, dare la scalata alla CGIL, un Landini che può contare sull'appoggio ora di Sergio Cofferati. Intervistato dal Fatto Quotidiano, Cofferati, che ha litigato molto, è uscito dal PD dopo le primarie molto burrascose nella regione Liguria, dice ora: sto con Landini, ci vuole un agorà per far rinascere la sinistra. Vabbè, regalo questo titolo ai colleghi amici di Agorà su Rai 3. Ci vuole agorà per Sergio Cofferati. Si litiga molto anche nella Lega. Beh, qui siamo veramente agli stracci che volano. L'ultimatum di Salvini a Tosi. Il tema è: si litiga in Veneto. Tosi vuole, nella compilazione delle liste, deve fare delle rivendicazioni. Vorrebbe anche una lista col nome Tosi a correre. Salvini dice: chi sta contro Zaia è fuori, si autoesclude. Ieri Zaia ha definito abominevole l'idea che Tosi corra contro di me, e Tosi, intervenendo alla Zanzara, dice: chi fa polemiche non è sul territorio. Comunque sabato andrò a Roma a questa manifestazione della Lega per non prestare il fianco a miserabili speculatori. Insomma, il livello è questo, e tutti i giornali raccontano la maretta, diciamo così, per usare un eufemismo, all'interno della Lega. Chi va contro Zaia è fuori dal carroccio. Questo è il titolo di Salvini più gettonato. Tra l'altro, anche sulla Lombardia, Berlusconi invece strattona Salvini a dire: Salvini accetti o salta la Lombardia. Cioè, Salvini accetti un'alleanza col centrodestra nel Veneto con Forza Italia, o salta il governo in Lombardia, dove c'è un altro leghista, Maroni. Un gran casino. Mauro Meazza, è un gran casino. Capisci? Ah, buongiorno. A proposito di gente che litiga, mi chiami in causa questa volta. No, ma noi si sa che no, dai. Sì. No, noi non litighiamo, insomma, così battibecchiamo. Simpaticamente, cioè, forse simpaticamente, comunque lo valuterà il mio avvocato. Caro, stavo leggendo del Jobs Act, su Sole 24 Ore, abbiamo ben 6 pagine per spiegare il Jobs Act, le misure definitive, varate definitivamente settimana scorsa, e quelle che sono state valutate con esame preliminare, quindi arriveranno un po' più tardi. Comunque è tutto più chiaro se leggi il Sole 24 Ore, ma questo io lo direi anche genericamente tutti i giorni. Poi invece con più preoccupazione apprendo da Sissi Bellomo che Gazprom potrebbe già da domani ridurre le forniture di gas all'Europa. E vabbè, questo niente, te la metto lì, come non, io non voglio dire niente, ma la situazione non mi sembra serena, fa ancora freddino almeno dalle nostre parti, caro Alessandro. Vabbè, vuoi una buona notizia? Sì. Allora, il Tribunale di Roma ha detto che se tu ti sei separato, poi ricevi un'eredità, non sei obbligato ad incrementare l'assegno all'ex. Perché insomma era un evento che non si poteva preventivare, quindi non c'è motivo per, anche se il tuo tenore di vita cambia sensibilmente, così dice il Tribunale di Roma. Indovina un po' dove l'ho letto. Su norme e tributi. Le cose che vedo già gli italiani a prendere nota. Aspetta, se hai sentito, si danno di gomito, norme e tributi, sono 24, eredità, separazione. Torniamo sull'energia, perché domani, ricordati che domani è giovedì. Succede spesso dopo il mercoledì, sì, devo dire. Succede abbastanza di solito. Ecco, però, come ogni giovedì, da qualche giovedì a questa parte, c'è il giornale della famiglia che ti parlerà del petrolio. Quindi ti spieghiamo, a te, ma anche ad altri che vogliano apprenderlo, perché l'andamento del prezzo del petrolio può influire così drasticamente sulle nostre vite, quali sono le dinamiche che lo regolano. Tra l'altro oggi parliamo di petrolio anche nelle pagine di finanza, perché ci sono un po' di problemi per l'estrazione nel Mare del Nord, insomma i margini si sono ridotti, ma sta tutto nelle pagine di finanza e mercati. E poi, caro, tanto per una buona notizia invece per il lavoro che facciamo noi due, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha detto se il giornalista usa la telecamera nascosta non è sanzionabile per questo. E quindi ha dato torto a un signore che non era tanto corretto, era stato smascherato. Questo è accaduto a seguito della Svizzera, ma la pronuncia, diciamo, ha un rilievo europeo. Sei contento di molto questo? Molto bene, Alessandro? Mi immunisco. Sei contento subito. Anche che se hai le serate libere dagli impegni calcistici internazionali, sì. No, sento che lì con l'amico Peter Bescapé, insomma, fate dell'ironia, tu dici frasi che poi lui nega. Vabbè. Alessandro Milan, al suo segnale, scatenate l'inferno. Addirittura. Ebbene sì. Allora, bisogna stabilire qual è il segnale, però adesso lo studiamo bene. Allora, la Grecia ancora è ben presente sui giornali perché l'Eurogruppo ha approvato gli aiuti ad Atene, ma è stata formalizzata di fatto una proroga di 4 mesi con le promesse di Atene, quello che il manifesto mette in prima pagina come restano umani, le promesse di mantenere, di fare le riforme, ma scrive il manifesto si mantiene anche quelle che erano le promesse elettorali fatte nel patto di Salonicco, il programma di Salonicco, cioè salari minimi garantiti, casa, sanità e smart card per i beni alimentari per i più poveri, equilibrio finanziario, un'attenzione alle fasce più deboli e tasse per i più ricchi. Questo è il primo sì incassato dall'Europa, sì con riserva. Sulla Grecia però l'intervista che a mio modo di vedere fa un po' più notizia in Italia è quella a Fassina, a pagina 3 della Stampa. Sentite cosa dice Fassina, intervistato da Francesca Schianchi. Per sopravvivere Atene deve uscire dall'euro. Se vuole sopravvivere, temo che per la Grecia non vi sia altra possibilità. È evidente che non sarebbe una passeggiata, ma l'apocalisse in Grecia è già arrivata. La linea proposta porterà inevitabilmente tra qualche mese a dover ristrutturare il debito. Questo accordo serve solo a prendere tempo. Tanto che la Stampa a un certo punto dice: scusi, ma Fassina, uscire dall'euro non è la ricetta della Lega? Ma innanzitutto stiamo parlando della Grecia, con le sue condizioni e le sue difficoltà. Dopodiché a un certo punto c'è il buon senso. Se uno continua su una strada che lo porta alla deflazione, all'impennata dei debiti pubblici, si deve rendere conto che è su una strada non più sostenibile. Non è un problema di destra o di sinistra, è un problema di prenderne atto. E potrebbe succedere che anche l'Italia si debba proporre e porre questo problema di uscire dall'euro? Questo problema se lo devono porre tutti, risponde Fassina, anche la Germania, la Francia, la Spagna. Vede, è male impostata la discussione se abbia vinto Tsipras o l'Europa. Al contrario di quello che ha detto il ministro Padoan, in questa partita hanno perso tutti. Le correzioni necessarie a far funzionare l'euro sono impossibili politicamente. Vogliamo dirci questa amara verità o vogliamo far finta che con un'altra operazione di precarizzazione del lavoro riusciamo a far ripartire l'economia? Costui è Stefano Fassina, ex viceministro dell'economia del Partito Democratico. Vabbè, noi parleremo anche di vitalizi invece alle 8:15, perché alla Camera e al Senato, come racconta anche oggi con Tommaso Rodano, puntata numero 2, Il Fatto Quotidiano, a pagina 4, si discute, ma non si tolgono i vitalizi ai condannati in via definitiva per reati alla pubblica amministrazione. Cosa che invece il presidente dell'Assemblea regionale siciliana ha detto ai nostri microfoni e ci ha mandato i documenti che oggi leggeremo in onda. È possibile fare da oggi, se politicamente il presidente di Camera e Senato, o meglio gli uffici di presidenza di Camera e Senato, volessero farlo, perché c'è un parere dell'Avvocatura Generale dello Stato che, tra l'altro, il presidente dell'ARS ha spedito alla Camera, al Senato, a Grasso e a Boldrini, gliel'ha spedito, e questo parere dice: in caso di una condanna per reati alla pubblica amministrazione il vitalizio va sospeso. C'è scritto nero su bianco, è un parere vincolante. Con questo parere l'Assemblea regionale siciliana ha tolto il vitalizio a Cuffaro, e con questo parere si potrebbero togliere i vitalizi ai condannati per reati alla pubblica amministrazione, che invece continuano a prenderlo. E c'è questo palleggio di responsabilità in cui si dice: si tolgono, non si tolgono, forse lo faremo, lo facciamo, la situazione è complicata. Sta di fatto che rimangono questi vitalizi. Parleremo anche di lotta alla mafia con Nicola Gratteri. Mentre voglio segnalare alcuni articoli di cronaca interessanti, eccolo qua sul Messaggero. Ricordate la vicenda dei pilota Alitalia? Alcuni piloti dell'Alitalia che erano in cassa integrazione ma contemporaneamente volavano per compagnie estere, quindi senza segnalarlo all'INPS si prendevano la cassa integrazione in Italia e uno stipendio bello pieno, magari da 8-10 mila euro da pilota per compagnia estera. È arrivata la prima condanna per uno di questi piloti, come racconta Riccardo Divanna sul Messaggero a pagina 17, intascava lo stipendio e la cassa integrazione, pilota l'Italia, patteggia. Si tratta di Mario Morigi, ex pilota fino al 2008, primo degli ex dipendenti della compagnia a chiudere il suo conto con la giustizia, patteggiando una pena 8 mesi di reclusione davanti al giudice per l'udienza preliminare di Roma. Volava con la Turkish Airlines, regolare stipendio, e intascava anche la cassa integrazione come disoccupato, come cassa integrato in Italia, senza segnalarlo all'INPS. È il primo, ma sono 36 i cassa integrati processati per truffa per questa vicenda. Sempre il Messaggero racconta: cari tifosi della Roma, attenzione a Rotterdam. Linea dura annunciata con i romanisti. Avete capito come si fa? Il sindaco ha dato poteri speciali alle forze dell'ordine. Gli arresti saranno più facili per la partita di ritorno Roma-Feyenoord, o meglio Feyenoord-Roma, quella al cui girone di andata, finita 1-1, ricordate com'è finita qua una settimana fa. Avete visto come si fa? Io dico sempre: prima ricetta che hanno scovato in Inghilterra contro gli hooligans, le cariche dei poliziotti a cavallo, che una zoccolata sulla fronte, vi assicuro, fa male, talvolta è pure letale. Zoccolate dei cavalli sui tifosi, vedete che la situazione si placa un po'. Ma siamo al momento della carta costa. L'articolo più inutile scovato sui giornali oggi vince la nostra amica Eleonora Barbieri. Un grosso abbraccio sul giornale, un'intera pagina per i segnali, per capire se la coppia andrà in crisi quando ci si critica, ci si disprezza, ci si insulta. Ecco, quelli sono i segnali per cui si capisce che la coppia è in crisi. E che diamine! Ma chi se ne frega! 24 mattino. Quando sono le 8:18 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Voglio tornare a parlare oggi del tema dei vitalizi, cari ascoltatori, vitalizi per i parlamentari, perché da alcuni giorni la discussione, soprattutto in Parlamento, Camera e Senato, si è riavvivata, soprattutto dopo che da un paio di giorni, ieri e oggi, il Fatto Quotidiano insiste con una domanda: perché paghiamo vitalizi a ex parlamentari che hanno una condanna definitiva per reati contro la pubblica amministrazione? Non è il caso di sospenderli? E a parole sembrano tutti più o meno d'accordo, poi nei fatti si dice: beh, ma dobbiamo vedere con la Camera, col Senato, è complicato, ci sono procedure, pareri da raccogliere, rimpalli di responsabilità, c'è l'autodichia, cioè l'autonomia nelle decisioni da parte del Parlamento e del Senato. Eppure una via ci sarebbe, e cercheremo di spiegarlo, perché ce l'ha spiegata molto chiaramente lunedì scorso il presidente dell'Assemblea regionale siciliana Ardizzone, che è stato a questi microfoni. Ci ha spiegato lui come ha fatto a sospendere il vitalizio all'ex presidente Cuffaro, in carcere per associazione esterna alla mafia, e ci ha detto che questa via è praticabile da oggi, se lo si vuole, in un secondo, anche alla Camera e al Senato. Allora, intanto voglio salutare il questore, uno dei questori della Camera, Stefano D'Ambruoso. Onorevole, ben ritrovato, eccoci qua. Buongiorno a voi. Allora, buongiorno. Intanto ci aiuta a capire a che punto è la discussione. Si può fare, si possono togliere questi vitalizi agli ai condannati per in via definitiva, oppure è complicato? Allora, innanzitutto buongiorno, e chiaramente mi faccio dire che io non avrò mai un vitalizio, perché sì, insomma, sono un deputato entrato da 2 anni e insomma, e l'auspicio di rimanere alla Camera non è tra gli obiettivi principali di chi parla, però questo è giusto come premessa necessaria, perché no, comunque alla Camera dei Deputati invece non c'è mai stata un'esperienza simile a quella che Ardizzone giustamente è venuto a rappresentare lì da voi il lunedì scorso. Quindi alla luce di una sua sollecitazione, che ho trovato assolutamente fondata, una sollecitazione fatta ai due presidenti delle Camere, sì, Grasso al Senato e Boldrini alla Camera, i due presidenti hanno aperto un'istruttoria che i questori di entrambi le Camere stanno portando avanti e stanno concludendo oggi, si concluderà oggi pomeriggio, sì, dove abbiamo raccolto i pareri, appunto, come diceva lei, di illustri giuristi. Ebbene, questi illustri giuristi pongono la questione in termini di problematicità tecnica, che però non vuol dire che non si può fare, perché la sì, politica può fare tutto. Infatti. La politica può fare tutto, per cui oggi noi, è verosimile che non posso anticipare qua mi anticipa la domanda, però, perché io le avrei chiesto invece di anticiparci di anticipare. Oggi noi rappresenteremo esattamente questo. Il mio punto di vista sarà questo, sì, che politicamente possiamo avere la assoluta strada aperta per prendere una decisione politica che cambi il verso e il segno. Perfetto, quindi la sua posizione personale è che politicamente, se c'è una volontà politica, quindi di Camera e Senato, degli uffici di presidenza di Camera e Senato, si può fare. Cioè, si può fare che cosa? Sospendere, perché i nomi usciti sul Fatto Quotidiano, ne faccio alcuni a beneficio degli ascoltatori: Cesare Previti, corruzione in atti giudiziari, Marcello Dell'Utri, che sconta in carcere, Berlusconi anche ha una condanna definitiva per frode fiscale, Gianni De Michelis, De Lorenzo, cioè Pillitteri, Vito Bonsignore, cioè tutte quelle persone che hanno una condanna per reati della pubblica amministrazione passata in giudicato, secondo lei, se c'è una volontà politica, a costoro si può togliere, sospendere per sempre il vitalizio? Sicuramente, ripeto, con la volontà politica sì, perché perché si interpreterebbe la norma un po' come hanno fatto in Sicilia. L'Avvocatura Generale dello Stato, interpretandolo come una pena accessoria ai sensi dell'articolo 28 del codice penale. Insomma, se uno viene condannato a più di 5 anni di carcere, scatta una pena che si chiama pena accessoria, l'interdizione dei pubblici uffici, e lì ti scatta in automatico anche la sospensione di ogni forma di... Ma infatti, ma che cosa? Perché lo vogliamo riascoltare, Ardizzone? Ha detto proprio esattamente queste parole, e visto che questo parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, Ardizzone l'ha chiesto come presidente della Sicilia, l'ha ottenuto dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, e si rifà all'articolo 28 del codice penale, per cui se scatta una pena superiore a 5 anni, automaticamente chi prende questa pena perde ogni diritto a qualsiasi tipo anche di vitalizio. Ardizzone, sentiamolo. È stato proprio lei, eravamo in piena estate, scoppiato il caso scandaloso del vitalizio pagato a un presidente della regione in galera per mafia. Mi rivolgo all'Avvocatura dello Stato, l'Avvocatura dello Stato mi dice no, ma non è un problema, dice già è previsto nel codice penale, articolo 28, va sospeso l'assegno vitalizio a tutti i condannati. E allora io ho scritto alla Boldrini, al presidente del Senato Grasso, inviando copia del parere dell'Avvocatura dello Stato di Roma. D'Ambrosio, per Ardizzone l'Avvocatura Generale dello Stato parla chiaro, non c'è bisogno di giuristi, interpellare pareri, si può fare. È anche vero che appunto ci sono altri illustri giuristi che sono stati presidenti delle corti costituzionali che hanno detto delle cose che non vanno in questo senso, nel senso che hanno detto che al contrario, per dirla chiaramente perché possa essere percepita, che al contrario tutto questo non si può fare perché la natura di questo assegno non ha la natura di per essere aggredibile in questo senso, per essere sottratta. E quindi che cosa bisogna fare? Considerato che allo stato attuale esistono queste due correnti di pensiero, tutte e due fondate e legittime, bisogna farne prevalere una. Perché? E questo spetta alla politica. Guardi, se vuole, spetta anche se possiamo fare una pressione mediatica legittima, credo, e per questo le voglio presentare anche un altro ospite. Si tratta di Leonardo Ferrante, che saluto. Buongiorno Ferrante. Buongiorno. Lei è il coordinatore scientifico di una campagna su Libera, la più grande campagna digitale contro la corruzione in Italia. La potete trovare se cliccate www.riparteilfuturo.it. E voi, tra le altre iniziative, Ferrante, ne fate proprio una sui vitalizi. Cosa avete fatto, tra l'altro, chiamando in causa tutti i parlamentari dell'ufficio di presidenza? Anzitutto è un'iniziativa che esiste da 6 mesi, cioè dalla prima volta in cui lo stesso presidente Grasso al Senato comincia a parlare della possibilità di fermare il vitalizio, e noi immediatamente come società civile interveniamo proprio per dire che non è possibile, al di là di tutto ciò che è discutibile in punta di diritto, non è possibile che in uno Stato democratico chi ha condanne definitive per mafia e per corruzione riceva un vitalizio. Tante volte si parla di diritto acquisito, ma quale diritto si acquisisce se si è esercitato quel ruolo facendo gli interessi di corruttori, corrotti e clan criminali? E quindi voi avete raccolto intanto firme, a che quota siete quasi di firme? 150.000. Scusi, si è persa un attimo la cifra, ce la puoi dire? Quasi 350.000, 343.000. Chiedete che cosa? Che venga sospeso per i condannati per reati alla pubblica amministrazione questo vitalizio. E voi avete anche messo l'elenco di tutti i deputati o senatori degli uffici di presidenza, dicendo qual è la loro posizione personale, cioè gliel'avete chiesta, avete spedito proprio un parere? Quello che abbiamo cercato di fare è rendere trasparente un processo. Si sa che molte volte le macchine della politica sono poco accessibili ai cittadini. Quello che come Riparte il Futuro più volte cerchiamo di fare è andare verso un modello, si direbbe in America, del Freedom of Information Act, cioè avere a disposizione tutte le informazioni di come sta funzionando la macchina politica e come vengono prese le decisioni. Per questo abbiamo chiesto a coloro che possono decidere a riguardo, l'Ufficio di Presidenza della Camera, il Consiglio di Presidenza del Senato, che cosa ne pensassero. L'abbiamo fatto con mail, con telefonate, anche allo stesso D'Ambrosio, anzi saremo più che lieti anche durante questa conversazione di avere la sua opinione definitiva al riguardo, perché noi chiediamo sì o no. È vero che poi in punta di diritto si può dire qualunque cosa, però è anche vero, come è stato ribadito, che la politica, esatto, la politica può decidere. Allora, onorevole D'Ambrosio, un pochino lei l'ha già detto, possiamo tradurre la sua volontà politica così, la mettono su riparteilfuturo.it con un sì, cioè lei sarebbe per la sospensione personalmente, politicamente, di questi vitalizi? Assolutamente sì, stiamo parlando di, appunto, di scelte politiche. La mia valutazione sarà quella, appunto, di sostenere assolutamente questo orientamento. Mi faccia permette di dire, non perché incalzato da una pressione mediana, me lo faccia dire, perché alla mia convinzione, insomma, ci tengo abbastanza a prescindere dal mio incarico politico del momento. Ma il vero punto è che, appunto, non si tratta di orientamenti che qualsiasi, ripeto, c'è un orientamento dell'Avvocatura Generale dello Stato che è assolutamente importante, e ci sono sentenze della Corte Costituzionale, che è l'altro organo di riferimento per qualunque, che dicono, insomma, che dicono che non si può fare. Però esatto, noi come possiamo sperare che prevalgano i sì? Lei già ci ha detto chiaramente, e ci sono altri che la penseranno come lei, che è per la sospensione di questi vitalizi. Lei è assolutamente sì, è a favore. Come siete divisi? Cioè, chi è che rema contro, se posso tradurla così? Sembra, guardi, dovrei interpretare le volontà recondite di no, chi... No, però lei è lì dentro, cioè mi faccia capire se prevalgono i sì o se invece sono più le resistenze. Beh, diciamo che fino ad oggi tutti i voti trasversali di quelle che sono state considerate le maggioranze tradizionali, e che hanno fra di loro, per le persone che hanno, appunto, che percepiscono il vitalizio, hanno un orientamento diverso. Questo è una cioè, mi sta dicendo i partiti cui appartengono, tutto l'arco costituzionale, obiettivamente tutto l'arco costituzionale dei partiti fondamentali, a partire, appunto, va detto in tutta obiettività, dal PD a Forza Italia. Quindi PD e Forza Italia, i componenti degli uffici di presidenza di Camera e immagino anche Senato di PD e Forza Italia sono più orientati verso il no. Sono oggi devono essere chiamati. Fino all'altro ieri c'era una situazione che di stallo, così come le dico. Guardi, io appartengo a un partito che sempre, me lo faccio Scelta dire Civica, questo, sì. Scelta Civica, che sempre su questo argomento aveva presentato un tentativo di cambiamento della Costituzione soltanto un mese fa, con un emendamento che si chiama emendamento Mazziotti. Sì. Noi abbiamo provato a dire, guardate che i vitalizi devono essere corrisposti esattamente per quanto uno ha pagato, soltanto in termini contributivi. Tutto questo, cioè, uno paga tanto e riceverà esattamente il corrispondente di quanto ha pagato, quello che accade per le pensioni d'Italia, ok? Sì. Tutto questo fino a due legislature fa, quindi per chi ha partecipato a legislature fino a due, invece non accadeva, uno pagava 10 e riceveva 80. Ma è stata bocciata. Ma noi abbiamo detto, dobbiamo farlo, perché così come per gli esodati, se guardate indietro, abbiamo detto quei diritti acquisiti sono stati ridotti, anche per queste situazioni dobbiamo avere il coraggio di poterlo fare. Però vorremmo. Non è passato, ma lo so, anche il vostro neo segretario Zanetti, che adesso è sottosegretario, ma prima, quando non lo era sottosegretario all'economia, aveva fatto una proposta di legge, lo abbiamo ospitato, simile proprio sui vitalizi, che non è passata. Però io vorrei capire, allora Ferrante, intanto possiamo iscrivere, se le fa piacere, D'Ambrosio, come un assolutamente sì a favore dell'abolizione di questi vitalizi. Il problema resta da capire che cosa succederà oggi e le resistenze politiche. Voi Ferrante che tipo di pressione potete fare, ovviamente nel denunciare pressioni dal punto di vista legale, stiamo parlando? Ecco, come società civile, appunto, non possiamo fare, sicuramente possiamo continuare a raccogliere queste firme, quindi anche gli ascoltatori che ci ascoltano possono andare sul sito riparteilfuturo.it/stopvitalizio e unirsi assieme, appunto, a questi 350.000 cittadini che chiedono insieme la stessa cosa, e soprattutto dare seguito anche a quelle che sono le parole del Presidente della Repubblica. Appena ieri Mattarella diceva c'è bisogno di legalità in questo Paese, e penso che questo possa essere dimostrato anche attraverso azioni forti da parte del Parlamento, di Camera e Senato, quindi non solo chiedendolo ai cittadini, ma assumendosi ciascuno questa responsabilità. Noi quindi uniamo la nostra voce a quella del Presidente della Repubblica e continuiamo a farlo, lo facciamo ogni giorno. Nello Trocchia appunto ha scritto anche, dopo aver letto la nostra petizione, sul Fatto Quotidiano, mette i nomi. Onorevole D'Ambruoso, per concludere, mi faccia capire proprio tecnicamente oggi che succede, cioè ci sarà un voto da parte dell'Ufficio di Presidenza della Camera, del Senato, congiunto, di tutti? No, oggi i due collegi dei Questori, sì, quello della Camera e quello del, sì, Senato, che sono stati chiamati dai due Presidenti, come ho detto prima, a fare l'istruttoria, sì, porteranno l'esito e il risultato di questa istruttoria. Che con i due pareri. È ancora in temi di problematicità, per cui io credo che questa sarà la mia posizione, e rappresenterò ai due Presidenti che le iniziative devono essere della politica, e quindi dobbiamo iniziare un percorso che può essere o in Ufficio di Presidenza o alla Camera, a seconda di quello che la politica deciderà, per invertire quello che sino ad oggi è accaduto. E questo percorso cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono due possibilità. Mi dispiace che scendere in uno pseudo tecnicismo. Invece è importante. O si prende una delibera dei due uffici di presidenza, sì, quindi che rimanga tutto all'interno della... E la delibera è esecutiva, cioè si può prendere... E poi diventare appunto esecutiva a seguito della delibera. Dall'altro lato c'è chi, proprio perché c'è una situazione di problematicità, può decidere che sia una legge questo è un percorso più lungo. Vabbè, noi fiduciosamente attendiamo, onorevole D'Ambruoso, che le devo dire, cerchi di portare più sì dalla sua parte, che dobbiamo fare insomma, se non stare con le antenne dritte. E la ringrazio, onorevole D'Ambruoso, ovviamente, così come ringrazio Leonardo Ferrante, coordinatore scientifico di Libera, della petizione di Libera, di questa iniziativa, ripeto, www.ripartelfuturo.it. Poi se fate / vitalizi c'è la parte, comunque è tutta interessante, la lotta alla corruzione sul digitale. Grazie per essere stati con noi. Dopo la pubblicità, ma tra 2 minuti e mezzo, siamo ancora in onda, 2 minuti e mezzo avremo ospite Nicola Gratteri, che è un procuratore, e a proposito di lotta alla corruzione e più che altro lotta alle criminalità di vario tipo. Ieri la Procura Nazionale Antimafia ha detto che ormai c'è una pervasività di 'ndrangheta, camorra e altre criminalità organizzate in tutta Italia, e ne parleremo con Nicola Gratteri. 24 mattino. Allora, ieri il procuratore nazionale antimafia Roberti ha parlato, ha raccontato di come mafia e 'ndrangheta siano ormai sempre più pervasive nella società italiana. Ne vogliamo discutere con colui che presiede una commissione per elaborare proposte in tema di lotta alle mafie, vale a dire Nicola Gratteri. Buongiorno e benvenuto e ben ritrovato, Gratteri. Grazie, buongiorno. Allora, intanto una cosa che mi ha colpito è questa. Dice Roberti che in qualche modo si è rovesciato un po' il cliché, anche, no? Che pensiamo di un sud in genere reticente di fronte alle minacce, di un nord più disposto a collaborare, più legalitario. Non è così? Sarebbe un cliché abbastanza clamoroso da sfatare. Ma a dire il vero, noi queste cose le diciamo da tanti anni. Se le mafie si sono radicate al nord, ad esempio da 40 anni in Lombardia o in Piemonte, o da 30 anni in Emilia Romagna, qualcuno gli ha aperto le porte. Se degli imprenditori hanno accolto dei soci di minoranza, espressione di 'ndrangheta, di camorra, vuol dire che hanno ritenuto conveniente dal punto di vista economico accettare questi soci di minoranza, soprattutto negli ultimi 5-6 anni di grande crisi economica e di grande crisi di liquidità. Quindi non è un fatto sporadico di quest'anno, di 2 anni fa, è un fatto ormai sistematico da decenni. Il dato è che non si è avuta la forza, il coraggio, l'attenzione di denunciare prima queste cose, ma a dire il vero, ci sono documenti, interviste, dichiarazioni che noi da Reggio Calabria denunciamo queste cose ormai da decenni. E questo succede con proprio i classici modelli di omertà anche al nord, dunque? Anche certamente, anche al nord, anzi noi vediamo che proprio le vittime di mafia, quelli che vengono uccisi perché denunciano, sono soprattutto persone, imprenditori del sud che sono ribellati alle mafie malgrado il rischio altissimo rispetto al nord, perché proprio al sud c'è un maggiore controllo asfissiante, quasi porta a porta. Senta, lei ha scritto anche vari libri sul tema, e sul tema anche specifico non solo dell'Andrangheta, ma proprio anche su quelli che Roberti ha denunciato come i pesanti silenzi della Chiesa. Per la verità, ha detto Roberti, prima di Papa Francesco. In che cosa la Chiesa è stata silenziosa? Guardi, noi abbiamo scritto il libro Acqua Santissima, che è il libro che ci ha dato più fastidi rispetto agli altri 9 scritti sull'Andrangheta. Perché si toccava la Chiesa? Ma abbiamo visto dei vescovi che hanno scritto pagine intere sui giornali di protesta, cose eccetera. Nella sostanza noi possiamo dire che a macchia di leopardo la Chiesa è stata silente, in alcuni casi connivente. Noi abbiamo fatto una ricerca storica partendo dal 1862 e abbiamo visto intanto che le prime due vittime di mafia sono proprio a Reggio Calabria, cioè le prime due vittime di mafia sono state uccise nel 1862, i primi due preti uccisi alla periferia di Reggio Calabria, e di questi la Chiesa non se ne è ricordato neanche con una messa in suffragio, nemmeno dopo che lo abbiamo scritto questo. E poi invece abbiamo anche dei preti coinvolti in conflitti a fuoco, abbiamo dei preti che sono stati uccisi e avevano la pistola addosso. Ma cosa è cambiato con Papa Francesco? Ma è cambiato abbastanza. Intanto è cambiato perché i vescovi, dopo la venuta di Papa Francesco in Calabria, nella piana di Sibari, per la prima volta nella nota pastorale sull'Andrangheta, testimoniare la verità del Vangelo, per la prima volta in un documento hanno usato il termine Andrangheta. Prima parlavano di criminalità organizzata, cioè il linguaggio cambia, il linguaggio soft che ha sempre usato la Chiesa per dire le cose senza affrontarle di petto. Invece in questo documento, per la prima volta, finalmente un documento chiaro, netto. E poi l'appello, l'abbiamo sentito, l'appello, quello che capiscono tutti, insomma, del pentitevi, del convertitevi, no? Sì, perfetto. Infatti Papa Francesco è andato molto oltre Giovanni Paolo II nella Valle dei Templi, e quindi questo Papa Francesco ha dimostrato non solo di avere coraggio, mi parlare un linguaggio diretto, non un linguaggio soft che può essere interpretato in due modi. Le chiedo questo però, Gratteri, se c'è una pervasività soprattutto anche al nord, perché la mafia si sposta dove ci sono i soldi, è chiaro che uno guarda subito alle preoccupazioni anche per l'Expo. Da questo punto di vista, che tipo di preoccupazioni ha lei da magistrato? Io so che sia l'Andrangheta che la Camorra hanno partecipato ai lavori dell'Expo 2015 e parteciperanno, nel senso che partecipare all'Expo 2015, come partecipare alla TAV, come partecipare alla Galleria del Freius sulla Salerno Reggio Calabria, è un fatto di prestigio, cioè non è tanto il fortunatamente guadagno. il compito delle autorità è cercare di bloccare quegli appalti sospetti. Sì, ma infatti Cantone sta facendo un lavoro pregevole, un lavoro importante, è la persona giusta al posto giusto, ci mancherebbe altro, però l'Andrangheta ha partecipa perché intende mettere la bandierina, è un fatto di è prestigio, di è prestigio, cioè è se un'azienda non se è un fatto di guadagno. Se un'azienda collusa partecipa all'Expo, come dire, è un biglietto da visita mondiale, perfetto, quindi anche perfetto, per l'Andrangheta. Le chiedo questo, Gratteri, una vicenda che mi ha un po' colpito. Noi abbiamo ospitato nei giorni scorsi l'ex ministro Lanzetta, ex sindaco di Monasterace, che poi ha lasciato il governo, poi non ha accettato di sedere nella regione Calabria. Per carità, io non so se sono vicende per le quali c'è qualcosa che lei non ce lo può dire, per quel che riguarda eventuali indagini, però mi ha molto colpito anche Rosi Bindi, presidente della Commissione Nazionale Antimafia, a dire ma insomma stiamo attenti quando si parla di icone antimafia. Lei sulla vicenda Lanzetta ci può dire qualcosa? Ha capito? La possiamo considerare un'icona della lotta alla mafia, il sindaco Lanzetta? No, non mi pronuncio, perché è probabile che ci sia da lavorare sul capire. Ci possono essere delle cose rilevanti per noi, quindi capire certe dinamiche è bene quindi non pronunciarsi in questo momento. È bene non pronunciarsi, la prendo come risposta, non possiamo scavare di più, no. Evidentemente. Le chiedo almeno questo, lei è della linea dura? Cioè, spesso ci ha spiegato qui, per esempio, come si potrebbe combattere, visto che presiede questa commissione. No, guardi, la commissione è finita. Io ho depositato un lavoro, un articolato di legge con le persone che ho invitato in commissione, gente prestigiosa, di magistrati, professori universitari, avvocati di altissimo livello. Abbiamo presentato un articolato di legge, non una relazione. Perfetto. Sul contrasto alle mafie. Cioè, un articolato di legge dove ora è la politica che deve decidere se vuole fare decreto legge, un disegno di legge. Ci dica le tre proposte più importanti che avete elaborato. Abbiamo l'informatizzazione al processo penale, quindi abbiamo battuto i tempi e i costi del processo. L'informatizzazione al massimo vuol dire risparmiare milioni e milioni di euro. Lei pensi solo con la videoconferenza 70 milioni di euro. Questa è la cosa immediata che si può fare domani mattina e tra un mese risparmiare nell'arco di un anno 70 milioni di euro. Beh. Poi abbiamo rivisto tutto il codice, l'associazione di inquisito mafioso, l'associazione di inquisito semplice, il 416 ter, cioè il voto di scambio. Non solo abbiamo aumentato le pene, ma abbiamo anche rimodulato il 416 ter non come era fatto prima, perché prima la Cassazione l'ha fatto a fette, e quindi ora finalmente abbiamo un 416 ter, abbiamo un voto di scambio che si può finalmente contestare. Poi abbiamo rivisto tutto il sistema, tutta la polizia penitenziaria, il sistema carcerario e il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, una cosa importante che fa risparmiare milioni di euro, ma soprattutto lo fa funzionare e dà dignità alla polizia. Dipende ora dalla politica. Crede che ha raccolto, come dire, pareri, se non altro a dire sì lo facciamo oppure sì lo faremo? Guardi, proprio tra pochissimi giorni ho un appuntamento con il ministro Orlando e con il sottosegretario Del Rio, sto aspettando la telefonata per incontrarmi. Per sapere cosa vogliono fare. L'ultima domanda che le faccio è questa: la magistrato sa che ieri è stata approvata la nuova legge che sostituisce la legge Vassalli sulla responsabilità civile dei magistrati, che ne pensa? A me ha colpito che in 28 anni, credo, di applicazione di legge Vassalli, solo a 7 cittadini sia stato riconosciuto un risarcimento per dolo o colpa grave di un magistrato. Non sono un po' pochini 7? Sì, ma guardi, se la legge, il legislatore fa quello che ritiene, noi applichiamo la legge. Io penso che prima ancora di arrivare a questa responsabilità dei magistrati, i magistrati hanno bisogno di un sistema di regole certe, hanno bisogno di strumenti per contrastare le mafie, dopodiché noi applichiamo le leggi che il legislatore ci dà. Cioè, a me personalmente non intimoriscono questo tipo di cose, responsabilità eccetera, che noi magistrati abbiamo coraggio da vendere, non è questo che ci fa paura. Se sbagliamo, tutti possono sbagliare, sbaglia il chirurgo, il muratore, l'architetto, anche il magistrato può sbagliare, siamo assicurati nel caso in cui dovessimo commettere un errore, col nostro stipendio ci paghiamo l'assicurazione. Ciò che invece io penso, i magistrati, soprattutto le correnti, chi fa associazionismo attivo, dovrebbe invece spingere a chiedere modifiche normative per poter fare il giro di boa per contrastare e arginare veramente le mafie. Stiamo solo pareggiando la partita. Queste modifiche voi le avete chieste in questa relazione, ci faccia sapere, torniamo a chiamarla quando avrà incontrato Del Rio e il ministro Orlando. Grazie Nicola Gratteri per essere stato con noi. Noi andiamo al traffico. 24 mattino. Siete pronti? E vi ricordo, se ci seguite dall'estero, di scriverci 24 mattino @radio24.it e noi vi chiamiamo in onda. Tra l'altro tra poco partiremo con un'altra iniziativa, un'altra straordinaria iniziativa che riguarda il lavoro che fate. Ah, questa è bella, questa è bella. Ma intanto voglio salutare Lorenzo, buongiorno, no, devo dire buonanotte, inutile mentire. Lorenzo, buonanotte. Dove sei, Lorenzo? Buonanotte, buonanotte, e ha messo giù. Mi sembra giusto, mi sembra corretta come cosa. Buonanotte, ha detto, vabbè, è finito il collegamento, manco iniziato, vado a dormire. Lorenzo, adesso devo svelare io da dove era, di dov'è, da dove sta, da dove ci ha chiamato, da dove ci ha scritto. Lorenzo, so che da 35 anni possiamo svelare questo segreto. Come al solito, quando abbiamo le telefonate dall'estero, poi cadono le linee. Che devo fare? Devo chiamare un ascoltatore? Va bene, chiamiamo un ascoltatore. Allora, Giuseppe D'Alecco, che ci ha chiamato per il tema vitalizi, credo. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno, dottor Milan. Eccoci. Molto brevemente, nel 2011 hanno applicato una legge 122 sul blocco delle retribuzioni dall'oggi al domani. Hanno bloccato i diritti acquisiti degli esodati. Trovo inconcepibile che siamo nel 2015 e dobbiamo ancora discutere su una cosa che dovrebbe essere i naturale. Vitalizi. Ma guardi, Giuseppe, noi teniamo duro. Che dobbiamo fare? Facciamo, aspettiamo oggi e vediamo come va. Però, guardi, le devo togliere la linea perché abbiamo recuperato Lorenzo. Buongiorno, Lorenzo. Pronto? Dove sei pronto? Tu? Buongiorno, pronto, Lorenzo. Buongiorno. Io mi trovo a Norwood, che è vicino a Boston, negli Stati Uniti. Ah, Norwood, ecco perché ho detto buonanotte. Che ore sono, Lorenzo? Sono le 2:53. 2:53 di notte, e tu sei sveglio per noi perché ti abbiamo chiamato. Ma questo è l'altro. Che fai a Norwood? A Norwood lavoro in una compagnia di assicurazioni. Io mi occupo di praticamente calcolare il rischio di inondazione, quindi dopo qualcun altro calcola i premi in base a questo. Ma fantastico, ma perché sei finito fino a Boston a fare questa cosa? Norwood. Perché io originariamente sono di Ferrara, ho preso il dottorato lì, poi mi sono sposato 5 anni a Trento, e dopo 5 anni dopo il dottorato non c'era insomma speranza di niente, quindi ti sei reinventato, proprio sei andato in America. Il lavoro che faccio è molto simile a quello che facevo prima all'università, però lo faccio nel privato. Tra l'altro so che tu ieri ci hai scritto una mail dicendo: ho ascoltato il cuoco dalle Seychelles a 30 gradi a Boston, lì fa un freddo boia, ho sentito una mia amica a New York che ci sono meno 20 gradi, ma è vero? Sì, qui erano meno 25 ieri mattina. Meno 25? Adesso, meno 25. E come si sta? Io non immaginavo nemmeno questa temperatura prima di partire. Adesso sono meno 9, però nevica. Meno 9? Vabbè, meno 9. Ma tu come ci ascolti, Lorenzo, da Boston? In diretta? No, di notte, dai, col podcast. Col podcast. E cosa vuoi dire agli italiani da lì, da Norwood? Ah, di partire? No, perché? No, dipende, no, però di non aver paura a farlo. Ecco, sì, questo sì, non proprio andatevene via tutti, però no, se avete l'istinto, buttatevi. Esatto. Lorenzo, tu eri con i New England Patriots alla vittoria al Super Bowl? I New England Patriots, Boston, questa non te ne frega niente. No, esatto. C'è Peter Bescapè che dice: ma no, ma il football, lui vivrebbe per il football americano, Boston ha vinto football americano, e te, Lorenzo, dici non ce ne frega niente. Vabbè, Lorenzo, sei stato simpaticissimo e ti mandiamo a dormire a questo punto a Norwood, a 25 km da Boston. Un grosso abbraccio ovviamente a tutto il Massachusetts, è lì, no? Boston, Massachusetts. Ciao, a domani.